Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Prima qualche sfottò e insulto, poi la maxi rissa in via Re Manfredi, nel cuore di Bari Vecchia. Pomo della discordia, contrasti di natura politica tra giovani simpatizzanti di destra e sinistra che si sono scontrati con mazze, cinture e fibbie. Sono tre ragazzini di 11, 12 e 13 anni, gli aggressori di Antonio, usiamo un nome di fantasia, un bambino di 12 anni che ieri sera è stato portato all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli con una ferita all'addome ed una alla spalla, due fendenti con un temperino da parte di uno dei tre coetanei che volevano punirlo per futili motivi. I due gruppi di giovani avevano iniziato a scontrarsi per futili motivi in un bar di Atena Lucana, ma poi il diverbio è proseguito in un altro locale. Successivamente il gruppo di giovani salesi ha raggiunto uno dei rumeni presso la sua abitazione. Ne è nata una rissa nel corso della quale se le sono date di santa ragione con mazze, pietre e coltelli. Ad avere la peggio sono stati due salesi ed uno dei rumeni, che sono stati trasportati all'ospedale di Polla, dove sono state... Avevamo già registrato questo dato negli ultimi tempi, ma oggi ne abbiamo una concreta e radicale esplosione. Gli italiani hanno una gran voglia di menare le mani, che gli adulti possano riporre la loro rabbia, la loro frustrazione, la loro delusione in quest'ultimo recessivo e arcaico sistema di esprimere dissenso. Non dico che è comprensibile, assolutamente non condivisibile, ma ci si può pensare. Ma questo accada ai giovani viziatissimi, nulla facenti, spensierati giovanetti che da qualche tempo hanno trovato una nuova maniera per impiegare in maniera concreta, ginnica e fisica il loro tempo? Su questo magari ci poniamo qualche domanda. La trasmissione questa mattina è dedicata ai genitori in ascolto. Fateci capire cosa sta accadendo a casa nostra, mi ci metto anche io. L'ultima delle notizie di risse organizzate, come una volta si organizzavano i concerti, come una volta si organizzavano le riunioni politiche, come una volta si organizzavano i flash mob per fare una sorta di presenza post-situazionista nelle piazze d'Italia, dimostrare la propria esistenza, oggi si organizzano grandi risse. L'ultima è di venerdì a Bologna, 200 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, quelli della Bologna bene, i Bolo bene contro quelli della Bologna feccia e Bolo feccia, si sono dati appuntamento ai giardini Margherita e se le sono date di santa ragione. Poi sono arrivate le mamme, i papà, li hanno portati via, la polizia li ha identificati, ma su questo dobbiamo porci qualche domanda. Vi leggo l'inizio della cronaca di Enrico Barbetti dell'Arresto del Carlino, quotidiano di Bologna, perché dà l'idea di quello che è accaduto. È un testimone, stava lì, è un giornalista bolognese. Il primo pregava con le mani giunte a supplicare di non essere colpito, mentre l'inseguitore lo placcava, fermandogli le braccia dietro la schiena e tenendogli la testa sollevata. Dopo aver afferrato i suoi capelli con una mano, questo si è verificato mentre un altro ragazzo gli ha sferrato il primo colpo all'addome e un secondo colpo quasi simultaneo al volto. Venerdì pomeriggio ai giardini Margherita non c'erano soltanto 250 ragazzini bolobene e bolofeccia, abbreviati in bolobè o bolofè, accorsi per picchiarsi, ma anche i normali frequentatori del parco, le mamme, i papà, che sono trovati di fronte a una scena surreale. Questo è accaduto a Bologna. Bologna la prendiamo come case history. Bologna è una classica, tipica provincia italiana, passata attraverso momenti felici, momenti meno felici, momenti di contrasto, ma ci rappresenta abbastanza bene in questo momento. Analizziamo il caso bolognese e vediamo, anche a Roma è successo qualcosa del genere, a Piazza Cavour qualche mese fa, lo so, se la sono data di santa ragione. Bei ragazzini con le loro macchinette ben parcheggiate, con i loro motorini, con le loro belle ragazze dai capelli lunghi e lavorati con il balsamo, se le sono date di santa ragione. Ma perché hanno tanta voglia di menare le mani? Hanno tanta energia repressa? Hanno bisogno di tanti ideali sul quali sacrificare i loro ardori di giovani virgulti? Questo ce lo chiediamo. 800 24 00 24. Ivo Germano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno direttore. Ma direttore di che? Non proseguo perché sarebbe un insulto all'intelligenza, non dirigo nulla, nemmeno a me stesso. Allora, Ivo Germano, sociologo, autore insieme a Danilo Masomasotti, che sentimmo ieri per gli Umarell e il Costa Concorda, di un libro intitolato New Gold Dream e altre storie degli anni Ottanta, edizioni Pentagon. Sono racconti, appunti, di preadolescenti e adolescenti ambientati negli anni 80-86, in cui anche la violenza collettiva aveva ancora dei barlumi di giustificazione. Era passato il periodo in cui se le davano magari imitando i film delle gang giovanili, della gioventù bruciata, passato il periodo della grande politica in cui si massacravano, si accoltellavano, si sparavano addosso per opposte fazioni, per ideologie contrastanti, adesso è il periodo dell'edonismo portato in piazza. Si picchiano perché questi ragazzini bolognesi? Allora, premessa, è una discussione a doppio taglio, perché non posso fare solo il sociologo, ma devo anche fare il genitore. Certo. E c'è, diciamo, notato dalle rassegne stampa, dalla diffusività dell'attenzione su carta stampata e su altri media di questa vicenda, che si corre il rischio di trasformare internet, la rete, i social network, i social media nel nuovo Bronx, replicando, diciamo, schemi appartenenti alla produzione culturale di massa, oppure si rischia, come dire, un tentativo di farla passare come una ragazzata. Come una volta si diceva i cattivi maestri, oggi si dice i social network cattivi in cui i ragazzi si danno appuntamento. Perfetto, qui non è un darsi appuntamento, secondo me, ha evidenziato bene lei prima, esce fuori la fisicità. Mi dia del tuo, cioè, professore. Allora, hai evidenziato molto bene la fisicità. Veniamo, l'edonismo si è trasformato in corporalismo, in corpo, in necessità di avere i sensi provati. I media digitali impattano emotivamente su questo ambito e soprattutto, insomma, negli anni Ottanta, non per citarci e solo a volo, una delle parole più ricorrenti, vere, virtuali, reali o presunte, erano hanno fatto a pacche, cioè si sono dati delle botte. Si sono dati delle botte fra gruppi che poi sono, se vogliamo citare, fare una citazione alta, una specie di versione bislacchi di provincia, amara e grande come ogni provincia, i ragazzi della Via Pal attualizzati. Ecco, sì, noi abbiamo dei supporti letterari adeguati alla nostra generazione, senza ricorrere alle gang americane, tanti film. È una cosa diversa. È un'altra cosa. Sono i ragazzi della Via Pal, in cui rimase una vittima il piccolo, il più sfigato, il più tenero rimane morto nella battaglia grazie a Via Pal, rimane ucciso perché aveva la polmonite, andò a combattere lo stesso, c'è una storia bellissima, ma questi sono tutti sani, ipervitaminizzati. Iperdinamici, sì, bravo, esatto. E poi scusami, su questo si innesta l'auto da fè non molto evidente di una parte di genitori. È colpa, cioè, della rete, questi ragazzi. È colpa della rete, colpa che lavoro tanto, io devo uscire, non ho tempo. Cioè, scusa, Ivo Germano, poi ti faccio una provocazione. Prima la versione parrocchial pretesca era per la rete questi ragazzi si consumano le diottrie, si fanno male, hanno un approccio alla sessualità sbagliato, ma pare che di energia ne abbiano tanto, piuttosto che andare in rete. Oggi la notizia chiude Penthouse, siamo tutti lì in lutto, ma chiude perché? Perché è anche normale, perché ormai nemmeno gli Umarell usavano più Penthouse per le loro attività autodistruttive. Ma è chiaro che la rete a questo punto ancora una volta diventa il pretesto per colmare lacune. Hanno tanta energia, hanno voglia di menare le mani, perché evidentemente, e quindi attraverso la rete si menano uno con l'altro. Sì, ma arrivano i paradossi di Telemaco, un libro molto interessante. Eh sì, di Recalcati, lo so, qui abbiamo di parlato. Recalcati. Cioè, vivono, certo, Recalcati, se ti sentisse accostare il suo libro a questa fattispecie... Colpa mia. Sì, sì, però... Colpa mia, se ma fotte, direbbero i francesi, colpa mia, ma sono tutte le responsabilità. Però vivono questo paradosso, cioè di un padre mancante, di una società fragile, che non gli canalizza più queste energie, e quindi naturalmente vanno di paraventi, vanno di additivi, vanno di qualcosa che li possa eccitare, ne possa eccitare una fisicità anche per certi versi gagliarda da un certo punto di vista. Cioè, io sono rimasto molto... Allora, scusami, Giovanni, spieghiamo bene la cosa, che non ho detto che tutti la sappiano. Come è avvenuta la dinamica di questa maxi rissa bolognese? Dove nasce? Nasce in un social network non da vecchi, cioè non da Facebook, Twitter, questi ormai mainstream assodati. Nasce in questo famigerato ASP di cui tutti sanno, e ometterei. Spiega, perché non è detto che il nostro pubblico non lo sappia. È un luogo dove si va e ognuno può porre una domanda e avere delle risposte. Sì, porre una domanda e delle risposte, poi insomma... Domanda tipo, per capire, tu l'hai frequentato. Cioè, non so, dove c'è... qual è la compagnia dove bisogna andare, oppure quali sostanze si possono trovare, oppure qual è il momento in cui, quali sono i più, diciamo, quelli che meno, cioè, insomma, ci sono vari gradienti. È un gruppo di autoaiuto generalizzato per trasgressioni adolescenziali, chiamiamolo così. Diciamo, sì, para devianze e trasgressioni adolescenziali, ecco, al tam tam, eccetera, eccetera. In più, naturalmente, il linguaggio non è da circolo di boiserie di lunedì sera, ecco. Il linguaggio a volte diventa molto immediato. Beh, parlano come parlano tra di loro, non è che ci parlano facciamo. Come tra di loro, e poi c'è una cosa che è una parola molto importante, il context, cioè la sfida. Ci si sfida, come ci si sfida, non so, su MTV fra rapper, così ci si sfida un po', quando si sfida c'è il millantatore, c'è il gradasso, c'è quello che si fa forte dell'anonimato per mostrare una faccia che non è la sua, insomma, cose, insomma, che mi sembrano piuttosto evidenti. Si sono dati appuntamento in un luogo simbolico, in un tardo pomeriggio è tempo di studenti sfaccendati che prendono l'ultimo sole, di badanti coi nonni, di nipotini, di giostre. Di umarelle, ce ne saranno stati. Di sì, insomma, quelli che vogliamo. Cioè, non è un momento eroico verso il vespro, è un momento di calma, di quiete, no? È un momento di meditazione, un momento di tranquillità. È che perché magari molti la sera nemmeno li fanno uscire, sono ragazzini, quindi l'hanno fatto il pomeriggio. Pomeriggio, esatto, perché insomma, e da una parte macchinini luccicanti, ma anche motorini un po' maragliotti, eccetera, si sono dati appuntamenti in questo tenzone, ma neanche fra due idee e visioni di vita, perché è abbastanza trasversale, in questa occasione per menarsi. E se ne sono date realmente, concretamente? Ma non lo so, questo io non so. No, ho visto i filmati. Sì, insomma, sembra di sì, insomma, sì. Però è difficile trovare i casus belli, perché i casus belli sono uno, nessuno è 100.000 in questo. Fermati caso. Un attimo, sentiamo qualche ascoltatore, cominciano a chiamare 800240024, vediamo di capire cosa ci sia dietro questa cosa che dal momento che ci fai non ridire vuol dire siamo diventati vecchissimi, però dobbiamo comunque decodificare per quanto possibile i segni della contemporaneità. Tommaso. Sì, buongiorno, grazie dello spazio. Io sono rimasto incuriosito anche perché non le nascondo, sono bolognese ma non la abito più Bologna perché per lavoro non la frequento e leggo anche poco la stampa. Questa notizia mi ha lasciato da un lato perplesso ma non mi ha stupito, nel senso che io ho vissuto questa fase essenziale negli anni 90, i primi anni 90 perché ho 38 anni, e non mi sono meravigliato perché quando io avevo tra i 15 e i 20 anni queste cose a Bologna succedevano, diciamo, negli stessi luoghi, no, perché i Giardini Margherita, come ha detto il... Ma era la Bologna di Zanardi, di Andrea Pazienza, era altro tipo di sfaccendati e lievemente più criminale come idea, perché ancora i cascami della lotta armata, le contrapposizioni spalmati nella gioventù più o meno dorata produceva questa sorta di cortocircuito fra eroina, tempo perso, donne, violenza e via dicendo. Dottore, guarda, io le dico questo, io ho vissuto una fase intermedia, forse quello che lei ha appena descritto era precedente, io ho vissuto una fase in cui c'era, forse non c'era tutto questo, c'era una noia diversa che spingeva, ma le classi sociali, l'estrazione, le contrapposizioni. E che facevate, Tommaso, sociali, concretamente, grazie. Cosa facevate ma di diverso? Io ero spettatore, ma vivevo da spettatore queste cose, c'erano i figli della Bologna Bene che si picchiavano un po' fra di loro, un po' fra quelli di una scuola e quelli di un'altra, poi c'erano invece i barcaioli e i pilastrini che si incontravano nella stessa discoteca e invadevano gli spazi e si picchiava con le cinghie, con le catene, con le veste truccate. Oggi ci sono le microcar da 15.000 euro in mano a dei bulletti, figli di stimatissimi professionisti che non hanno il tempo, come non ce l'aveva il camionista che abitava al pilastro, di seguire suo figlio nella crescita, di dargli dei precetti o dargli semplicemente una sberla sana, perché fa, scusate l'espressione, una stupidaggine giovanile. Fermiamoci un attimo, Tommaso, sentiamo altri ascoltatori. È chiarissimo e anche interessante che lei abbia dato un filo di continuità meno lambito dalla cronaca rispetto a quello che sta accadendo. Davide, buongiorno. Buongiorno signori, ringrazio Tommaso per aver detto una cosa così importante che è la mancanza del tempo dei genitori che da dedicare ai propri figli, anche per la sola presenza, non solo per la sberla. Ma la macchinetta come fanno a comprargliela se perdono tempo per seguirli? Questa è ma quelle sono cose, i bambini hanno bisogno solo dell'amore, che quando ci sono dei vuoti da colmare ci sono le cose. Allora, c'è chi può farlo, come magari chi se lo può permettere, e chi no. Ma qui stiamo perdendo di vista una cosa molto più importante. Cioè, noi adesso stiamo discutendo di un micromondo. Cioè, il micromondo di che andiamo a dire che questi ragazzi si sono incontrati su questo sito dove parlano male. Cioè, se l'ha visto l'esperto bravo che ha detto belle parole anche lui, questa cosa qui, la poteva vedere anche la polizia. Anche se non ci arriva da sola, la si segnala. Ma arrivare a farle fare, a farle creare queste cose, mi sembra veramente... Sì, non è che voglio spezzare l'ancia, ma... Penso che abbiano già abbastanza problemi che andare a vedere sui social network degli sfaccendati. Guardi, di problemi ce ne sono tanti, tutti quanti li abbiamo. Diciamo che il primo problema dell'Italia, parlo come problema concreto tra i miliardi che abbiamo di problemi, sono purtroppo la categoria dei giornalisti che sono, purtroppo non possono parlare, perché se si potesse parlare in Italia, tanto si potrebbe fare di meglio. Ma noi stiamo parlando, scusi, ma perché a questa occasione sta parlando lei in questo momento? È un giornalista che l'ascolta, sta cercando di capire... Buoni, perché purtroppo ci sono dei giornalisti che non possono parlare. Vabbè, adesso lei ce l'ha con i giornalisti, però è un'altra trasmissione. Guardi, non è che adesso voglio difendere la categoria, figuriamoci, non ho nessuna difesa d'ufficio da fare, figuriamoci, nessuno mi ha mai difeso a me quando era il momento, quindi non ho nessuno. Però adesso è un altro tema questo. Daniela, non è se no la censura, usciamo i giornalisti, parleremo un giorno anche dei giornalisti se volete. Daniela, buongiorno. Buongiorno, io sono un'insegnante di Milano e quindi mi trovo, non dico quotidianamente, ma comunque spesso a dividere ragazzi che vengono alle mani per niente. Ma spesso mi trovo anche davanti a genitori che, ahimè, difendono chi picchia e provocano il picchiato a reagire. Quindi questa è una mentalità molto comune. Ci sono anche vari aspetti. Noi come scuola... Ecco, lei come la registra come insegnante? Che volevo allargare. Io insegno in una scuola media, quindi è una fascia d'età, diciamo dalla prima alla terza media, diciamo 10-11 anni, 14. Allora, io registro questa cosa. Uno, una mancanza di... un po' di ideali, ecco, non è retorica, è vero, ma proprio mancano dalla famiglia. Ideali anche, non so, religiosi, etici, morali. Ma questo lo dicono dai tempi... purtroppo è sempre... Dalle tavolette cuneiformi che abbiamo trovato, c'è scritto, detto. I giovani non hanno ideali rispetto... Poi arrivano in prima media già con l'iPhone. Allora, noi abbiamo difficoltà a far capire ai genitori... Ma per fortuna, scusi, per fortuna. No, il telefono non si usa a scuola. Queste mamme che chiamano i figli per vedere se sono arrivati a scuola. Questo è un altro problema. Abbia certo. Pazienza. Questo ha ragione. Io guardi, divido le due cose. Esiste una visione distorta delle nostre protesi elettroniche, che questa qua, che è il filo indiretto. Esiste una visione attiva che con quell'iPhone potrebbero lavorare molto bene a scuola, esatto, se la scuola fosse attrezzata. Esatto. Questi sono strumenti meravigliosi che non c'erano ai miei tempi e sono strumenti eccezionali, ma bisogna farne un corretto uso. Questi ragazzi sono su Facebook già dalla quinta elementare, io non dico tutti, ma la maggior parte sì, perché poi emula il compagno e poi il genitore che proibisce al ragazzo di utilizzare internet a suo piacimento va a casa dell'amico che invece ha il controllo della situazione e scarica film. È molto chiaro, Daniela, molto chiaro. Lei fa parte da osservatrice insegnante, diciamo, di questa fetta di opinione che ha già toccato Ivo Germano, per cui c'è sempre la responsabilità di una nutrice elettronica. La nostra generazione si sentiva corrotta, almeno nel punto di vista dei nostri nonni, genitori, zii, dalla televisione, dai cartoni animati giapponesi, dalla violenza televisiva, la generazione ancora precedente magari da certi film che danno modelli sbagliati per adulti con riserva, sconsigliato alle famiglie, come si leggeva nei bollettini parrocchiali. La generazione ancora precedente, la letteratura, dei romanzi, leggono certi, le ragazze leggono i romanzi d'amore, Dio mio cosa diventeranno, usciranno dall'idea di poter essere brave mamme, brave spose. C'è sempre l'idea di un supporto responsabile, non credo che questo sia il punto. Melog, la realtà condivisa. Frange asimmetriche contro canotte e lampade, teschi e cicatrici contro cubiste e aperitivi, ma più in generale la capacità di emozionarsi opposta alla discoteca e all'arte di non passare inosservati. Gli under 18 nella capitale si sfidano a colpi di video su YouTube, litigano in chat e poi si danno appuntamento tutti i pomeriggi a Piazza del Popolo. Il popolo dei gruppi umani, così li definiscono i media, è seduto sugli scalini delle chiese gemelle. Qualcuno sfila su Via del Corso, altri preferiscono interagire solo su internet. Le sottoculture giovanili a Roma non sono una novità, prima c'erano i coatti di Verdone, Ivano, Jessica e il Supercafone, oggi si chiamano Truzzi ed Emo, si distinguono in base alla suoneria a tempo di Austria. 800 24 00 24, dite la vostra, dateci un contributo, fateci comprendere e capire dall'esperienza individuale se sta accadendo qualcosa di nuovo, di singolare, degno di essere certificato e raccontato da noi raccontatori della contemporaneità, o semplicemente stiamo vedendo una riedizione leggermente virata sul supporto cyber delle antiche volontà di grandi contrapposizioni anche fisiche, anche virulente in certi sensi, probabilmente anche positive, fra giovani generazioni, virgulti maschi, non essendoci più guerre da decine e decine di anni, devono comunque confrontarsi, come lo facevano nelle bande di quartiere ai tempi dei ragazzi via PAL, come lo fanno ancora quelli che seguono il tifo calcistico per qualunque altro sport, come è stato fatto per lungo tempo per la politica, oggi lo fanno per banali e futili motivi. Ma rispetto alla maxi rissa bolognese di venerdì di cui stiamo parlando, c'è una nota additiva che vorremmo sottolineare e su cui vogliamo tornare. Ce l'aveva già accennato, e chiedo di rientrare in quel tema, il sociologo Ivo Germano. Ivo Germano ha detto: sì, però questa maxi rissa non sono andata a farsela come fanno i tifosi della Roma, della Lazio, di altre squadre, come hanno fatto ai tempi della politica, in luoghi preposti al confronto virile fra uomini che vogliono darsi, no, sono andati nei giardinetti, davanti alle nonne, davanti alle colf filippine, davanti agli umarel che giocano a bocce, è come se lo facessero davanti alla loro famiglia per dimostrare qualcosa. Ivo Germano. Sì, uno potrebbe leggerlo come un estremo atto di conflitto generazionale, cioè di sbattere in faccia la loro ingovernabilità, in maniera rozza e in maniera anche, diciamo, violenta, però c'è questo, diciamo, un ritratto di famiglia che si spacca. Cioè, noi andiamo a spaccarci la faccia, a menarci, a toccarci, a cercare di prevalere fisicamente. Poi spaccarsi la faccia, ragazzi che si depilano le sopracciglia, il cui loro problema è la forma fisica. Lo vedo molto diverso. Un pugno in faccia a un sopracciglio depilato mi metterebbe a me qualche angoscia, come picchiare una donna. Sì, sì, insomma, diciamo, c'è una rozzezza di base, che però diventa anche come la voglia di squarciare una continuità rispetto alle famiglie appartenenza. E quindi te lo faccio davanti, non so, alla Filippina, che è una delle tre Filippine che mio papà e mia mamma hanno per certi stati, oppure vicino alla badante che mio padre e mia madre, andando a lavorare a part time, eccetera, incontrano sull'autobus la mattina, eccetera. E quindi diventa un grande palcoscenico narcisistico, di metrosessuale, di tutte le categorie, di tutte frullate nell'ultimo decennio, dove veramente ci si dà i cazzotti in maniera un po' febbre. Pensa adesso, Ivo Germano, staranno dicendo: che figo, parla di noi anche la radio, visto, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ma assumo la seconda responsabilità che mi assumo oggi. Andrea, buongiorno, Andrea. Sì, buongiorno. Eccomi. Buongiorno a tutti. Scusa l'attesa lunga, ma è colpa mia. Non avevo visto nello scroll del monitor la tua telefonata, colpa mia. Allora, porto una mia esperienza personale, quella di ragazzi di Firenze, io ho 38 anni anch'io, come l'ascoltatore di prima. Prima non avevamo telefonini, c'era il passaparola, ci si affrontava tra compagnie diverse per uno sguardo, perché magari qualcuno aveva detto qualcosa alla fidanzata, ci si trovava in qualsiasi punto, o era un giardino o per strada. Però cosa succedeva a differenza? C'era il testa a testa, cioè i contendenti se le davano. e noi, le varie compagnie, guardavamo se c'era qualcosa fuori regola o se qualcuno interveniva, allora poteva essere... Era un singolare tensone, se la davano i due perfetto, contendenti. Perfetto, quello che... Come nei film delle gang americane, tutti intorno i due si menano. Tutti intorno, però senza coltelli, senza mazze, a mani nude. Quella differenza di oggi è il discorso di un'applicazione di internet per cui tutti era il Fight Club di Firenze praticamente ma di qualsiasi altro paese, cittadino di altro comune. Quello che c'è adesso c'è internet, quindi tutti si ritrovano perché l'unione fa la forza, perché singolarmente non farebbe assolutamente niente, e si ritrovano 100-150 persone a fare una cosa che neanche magari volevano fare. È questo l'unione di fare c'è un social coinvolgimento, quindi ancora una volta l'unica nota additiva è il fatto che tutto parta dalla rete, quindi si declinano le dinamiche della rete anche nelle dinamiche della rissa giovanile. Benissimo, poi un genitore, vedo due bambini, un genitore può dare tutto l'amore che ha, come io ho ricevuto dai miei genitori, poi a un certo punto è la testa di ogni singolo giovane che a un certo punto parte e decide di fare qualcosa anche se non lo vorrebbe fare. Diciamo che quando un ragazzo adolescente la parte precipua di quello che si può dare a un figlio si è già data, è difficile, diciamo che uno ha già seminato in un adolescente, poi può mantenere il contatto, far vedere che c'è, ma è molto difficile poi in una fase così anche complicata e ingestibile che il genitore possa dire a un ragazzino che poi si trova in questa avventura coinvolto, hai sbagliato, hai fatto male, dovrà capirlo da solo, avere strumenti per capirlo. Andrea da Verona. Sì, buongiorno. Buongiorno. Un pensiero che ho fatto già diverse volte, capita a fagiolo su questa discussione, è il fatto che dalla mia generazione, ma forse anche quella prima, no? Sento io 40 anni, sento anche le persone che hanno parlato prima, ecco, ci manca un rito di iniziazione. Quello che voglio dire, una volta in qualsiasi cultura... Beh, ma manca da secoli comunque. Sì, difatti, manca da secoli, e secondo me questo è un grosso problema. Ne abbiamo fatto a meno comunque, abbiamo vivacchiato per parecchi secoli. Sì, ma ci vivacchiamo, però abbiamo un sacco di prime volte, la prima volta che ti lauri, la prima volta che scopi, la prima volta che ti fai uno spinello, la prima volta di tante cose. Nessuna mai fondamentale, nessuno che ti dica, ok, da questo momento in poi sei un uomo, stai tranquillo, sei nella cerchia degli uomini, stai tranquillo. Ecco, questo è una cosa che secondo me alle generazioni manca. Lo sai qual è il problema? Mi prendo io le colpe. Quando i figli ci guardano, si rendono conto che anche noi non siamo ben sicuri di essere... in fondo di aver fatto tutte le prove per essere uomini, è la nostra fragilità, la nostra incertezza, alla fine Telemaco siamo ancora noi a nostra volta aspettiamo la conferma di un padre che deve arrivare e rimettere le cose a posto. C'è stato un salto radicale nella trasmissione generazionale, questo negli ultimi decenni, poi nel nostro paese ancora più forte perché siamo usciti da una situazione epico-arcaica, una situazione immediatamente moderna, consumista e via dicendo, che abbiamo ancora i nonni che si ricordano quando facevano i balilla i figli della lupa, e allo stesso tempo ci sono i nostri figli che si organizzano su internet per fare le risse e nei parchi giochi. Antonio. Eccomi, buongiorno a tutti. Io ho 50 anni, porto la mia esperienza personale, ai miei tempi anch'io ho partecipato a questi incontri, chiamiamoli così, gli scontri erano ovviamente i più assurdi. Perché solo ora... mani e piedi o anche bastoni, coltelli e cose? No, assolutamente mani, e poi mi leggo un po' a quello che diceva Andrea di Firenze, sì, eravamo un po' più diretti, un po' più, come dire, naturali, quindi non c'era, il confronto da noi era niente pugni uno in contro faccia. Uno. Sì, c'è niente pugni in faccia, delle no. Più buone di queste occasioni, sì, ma non sulla faccia. No, forse sulla faccia o sullo stomaco, il punto dove si colpivano si sapeva, si evitavano certi punti un po' dolorosi, ecco, questo senz'altro sì. Quelli però risolvevano la questione in un solo colpo, chi era fortunato a darlo per primo esatto, aveva chiuso. Esatto, e quindi noi avevamo un solo, anche se ci si ritrovava forse in 20 contro 20, noi avevamo un avversario, quindi ognuno si prendeva l'uno. Mentre adesso mi sembra di aver sentito prima due. Sì, adesso che lo tenevano... è pestaggio da film proprio, esatto. punizione in ambienti della malavita organizzata, se vogliamo tenerci all'immaginario locale o semplicemente nella malavita di Brooklyn, se vogliamo fermarci a citazioni filmiche più lontane. Devo devo dire che purtroppo io ho un figlio di 11 anni e tutti gli scontri che lui cerca, anche con me, poi va bene anche a scuola, ho visto, passano direttamente allo scontro fisico, anche con me cerca lo scontro fisico. Ah, il suo figlio vuole mettere le mani addosso. Sì, vuole fare le prove di forza, vuole vedere se riesce a colpirmi, vuole vedere, sembra quasi che la cosa più importante sia l'unica cosa che può mostrare sia la forza fisica. Ma questo è singolare, però, questo ritorno a una necessità. Noi abbiamo registrato via negli ultimi anni, che improvvisamente in un momento in cui sembra che la proiezione digitale onirica di noi stessi sia la nostra vera essenza, cioè nelle nuove generazioni un desiderio violento di far risentire l'aspetto corporeo. Sara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. A me non scandalizza però quello che sto dicendo Sara, anzi mi fa riflettere, non lo sento come un grande lutto che i ragazzi abbiano una riscoperta del confronto corporeo, sinceramente. Io volevo dire che mi sono accapigliata tante volte con le ragazze, quanti capelli ho avuto tra le mani, e poi ho visto i miei figli che si sono accapigliati. E perciò non darei tutto sto... Facevate capelli, da bambine facevate capelli, Sara? Madonna mia, sa quanti capelli ho tolto io alle mie amiche e loro a me? Ma le donne come fanno a botte? Una prende per i capelli l'altra e la trascina? Eh sì. E quella strilla, urla, più forza, e basta. Ne toglieva di più. Ah, solo strapparsi i capelli, vabbè. Sono diventata grande, poi ho ragionato e io penso che adesso forse esagerano perché sono un po' più violenti, però nelle scuole, cioè... i bambini si devono picchiare, come fanno i gattini, come fanno i cagnolini, se li metti assieme. Cioè questo devono, questo possiamo anche dire che su questo gliela passiamo, però è la modalità organizzativa di questa cosa. Lo ripeto, l'hanno fatto ai giardinetti, in un posto dove fino a qualche anno prima, perché alcuni mesi prima venivano portati a prendere il gelato. Quindi sono rimasti nell'humus, nell'habitat della loro fanciullezza. Non hanno fatto il salto da uomini, andiamo a combattere, entriamo nella foresta, ci affrontiamo finalmente, fare che siamo uomini. No, sono rimasti nel parco giochi dove hanno passato i loro anni di fanciulli. Melog. La realtà condivisa. Cinque ragazzi, tutti minorenni, hanno litigato ieri sera all'uscita di un bar ad Aversa, nel Casertano. Una parola di troppo, qualche spinta, alla fine è spuntato un coltello con cui uno di loro, di 17 anni, ha ferito gli altri quattro ragazzi. Emanuele Di Caterino, 15 anni, da Aversa, è morto, raggiunto al cuore da una coltellata. I suoi amici lo hanno portato in ospedale, ma il ragazzo non ce l'ha fatta. 800240024. Baby gang, ragazzi che fanno a botte, fenomeno antico, fenomeno vecchio, fenomeno che abbiamo lambito generazione dopo generazione, ma vediamo le fattispecie di diversità in questi ultimi episodi. Lo facciamo con Ivo Germano, sociologo, autore assieme a Danilo Masotti del libro New Gold Dream e altre storie degli anni Ottanta, edizioni Pendagon. Ivo Germano, dalle telefonate stiamo avendo un continuum che ci dà l'idea che in fondo si è sempre fatti a botte. Noi ci siamo dimenticati perché, ahimè, le sinapsi vanno arrugginendosi, ma man mano che sentivo le persone mi venivano in mente immagini, situazioni, ricordi giovanili. Quindi ancora una volta ti rifaccio la stessa domanda: esiste una diversità, esiste un cambiamento? Non è che la cosa mi preoccupi, non sono preoccupato perché i ragazzini bolognesi non diventeranno tagliagole per questo, né si sono fatti male, né ci sarà l'escalation che la prossima volta ci vanno col Kalashnikov, però vorrei capire qualche segno del tempo in cui vivo. Allora, in ogni epoca si è chiamata suburra, teppa, gang, sottocultura, quello che vuoi, si è registrato un fenomeno simile. A me, ripeto, l'unica discontinuità è che l'hanno fatto in un luogo familiare, cioè non in un non luogo, non nei mille luoghi di disaggregazione della società contemporanea. L'hanno fatto dove si sentivano di casa. E anche protetti, diciamo la verità. E protetti. Era gioco forza che dopo 10 minuti lì le nonne chiamassero la polizia e li fermassero tutti. Era ovvio, 10, 20, un'ora, non lo so. È come quello che prende i barbiturici e poi chiama dopo 30 secondi al telefono, l'ho bevuti, capito? Ecco, esatto, è come la cameretta in cui prendi chetamina, ma la tua cameretta, cioè è un luogo familiare, non è un ignoto, non è un altrove. Cioè, non è l'architettura oscura. Quindi, per paradosso, l'elemento che ha sconvolto tutti, Dio mio, la violenza, dove saremmo arrivati, in realtà è una trappola. In realtà questi ragazzi sono molto, molto farlocchi, mosci, tutt'altro che desiderosi della prova di forza che li farà diventare uomini. Hanno annullato, trasformandola in metafora, trasformandola in gioco, trasformandola in una simulazione da videogame, l'unica occasione che avevano per provare un attimo a vedere se potevano uscire dalle braccia di mamma e papà. Hanno vissuto una giornata da gangster Rio, da... Sì, ma da sfigati terribili. Ma diciamo. Sì, cioè adesso questo... Cioè, cioè, hanno giocato in casa, quando giochi in casa conosci le parti del campo, sai che distanza c'è fra la, la bandierina per il corner, eccetera. Quando giochi fuori casa ti sputano, sono ostili, hai tutta un'altra, diciamo, di... Hanno giocato in casa, confidando che qualcuno avrebbe premuto un pulsante o avrebbe ripreso entro un'ora. Fermo un attimo, Carlo, buongiorno. Buongiorno Carlo. Carlo? Sto scherzando. Ah, non volevi parlare? Rue del Boulevard. Boh, non so. Non sta parlando con me. Sta andando in taxi. Beh, aspettiamo un attimo, Carlo. Carlo? Eccomi. Sì, eccomi. Con chi ce l'avevi? Con un francese che mi stava rompendo le scatole. Ah, e dove voleva andare? Non l'ho capito per niente. Ma in che Senta. Città sei? Che città sei? Io sono di Roma. A Roma. Ah. E dove l'hai mandato? No, dove l'hai mandato? Dove l'hai mandato? No, perché non ho capito l'indirizzo. Dove l'hai mandato? A quel paese. Ah, ecco, sì. Non mi pareva esatto. Allora, Carlo, vediamo un po', andiamo al punto. Dunque, io ho 71 anni, sì. E mi ricordo perfettamente, anche perché ho una traccia indelebile sulla parte alta della mia fronte. Sì, lo so, capita, non te la prendere, sono cose della vita. No, successiva. Ci mancherebbe altro. Lo so, ormai. È inutile anzi, nasconderle. Gli dico la verità, qualche volta l'ho spacciato come un fatto eroico. Ma, e quindi c'è questa protuberanza sulla fronte, da cosa è data? Da una sassata. Ah, una sassata. Perché noi, i quartieri, vivevano... il quartiere, poi c'era la campagna, poi c'era un altro quartiere e così via. Diciamo ecco la guerra in quel caso tra chi era? Tra quali quartieri? Io in quel periodo mi abitavo a Prima Valle. Prima Valle contro cosa? Contro chi? Contro Valle Aurelia, contro Boccea. E come avveniva la convocazione per la battaglia? Come vi incontravate? Ah, questo è un mistero. A un certo punto fra di noi... Bisogna andare a picchiare quelli di Valmelaina, che poi dopo magari ce l'hanno data a noi invece, no? E andavate armati o andavate soltanto con le mani e con no, i sassi? No, mani al massimo erano i sassi, mai serciate. Un coltello, mai un bastone, niente. E quindi mani. Già avveniva quei tempi. E finite le botte, ognuno tornava a casa sua? Ognuno se ne andava a casa sua. Ma non era la battaglia, diciamo, fra ricchi e poveri, fra fighetti e sfigati. No. Eravate nello stesso stato sociale. Era come i Gorazzi e i Curiazzi, noi siamo di qua, anzi c'era pure un ritornello. Prima Valle è quella cosa che si chiama prepotenza. Ecco qua tutta la lenza che c'ha voglia di menare. Chiarissimo, guardi, lei ci ha dato un quadro di reperto antropologico importantissimo, che in nessun giornale ho letto qualcosa del genere, quindi le sono grato. Gaetano. Pronto? Sì. Ho 56 anni e ho due figli, lei dove uno di 23 e di uno di 15. E dove faceva botte lei a suo tempo? Io quando avevo già 7 anni cominciavo a fare a botte quanto ne volevo, perché c'erano i luoghi di aggregazione una volta, si andava all'oratorio. C'erano i giardinetti dove stavano altri e facevate le risse anche all'oratorio? Ma sì, ma era continua, si menava continuamente perché c'era molto tempo, perché i genitori, mio padre guarda caso faceva il camionista, io anche faccio il camionista, mio figlio di 23 anni è stato lasciato a briglie sciolte e ha passato i suoi guai, però è sopravvissuto. L'altro figlio che ne ha 15, che mia moglie ci è presa l'onere e l'onore di seguirlo fattivamente, stranamente è molto più posato, molto più calmo e tranquillo. Vabbè, abbiamo capito che esiste una storia intensa e profonda di botte e di scontri fra bande nel nostro paese, ma come ha detto Ivo Germano, in realtà c'è una fattispecie di diversità in questa storia qua. Nei tanti racconti, tanti ne arriveranno, di eroici furori adolescenziali viene fuori la stessa storia. Sì, ci menavamo, facciamo a botte, ma era già un passo oltre il legaccio e il lacciuolo affettivo di controllo che ha la nostra famiglia, che aveva la famiglia su di noi. No, la diversità, come ha sottolineato Ivo Germano, viene proprio dal fatto che in realtà questi ragazzi hanno sviluppato una metafora di questo antico fra botte, fra bande, fra fazioni, fra pensieri politici diversi, e l'hanno fatto nel luogo preposto in cui erano sotto la sorveglianza di nonni, zii, genitori, e infatti si sono fatti molto poco male e sono diventati molto noti, quindi hanno raggiunto il loro scopo. Attendiamo il nuovo reality show o talent show Facciamo a Botte ai Giardinetti. Grazie Bogermano, grazie Rocchetti, grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani.